volevo intervenire sulla situazione di Stolarist. Se ho ben inteso, venivano indicati due modi, anche concettuali, oltre che storicamente determinati, di intendere questo concetto di autoamministrazione. Posso parlare in italiano? Sì. No. Da una parte, appunto, quello del primo liberalismo, e dall'altro lato, quello dell'auto-organizzazione di territori, di spazi che stanno accanto, fuori del Parlamento. Ecco, io volevo provare a proporre una terza possibilità, proprio in relazione a Hegel, che lei ha citato velocemente. E mi pare che sia una terza possibilità, nel senso che è esattamente il significato del Parlamento e della rappresentanza moderna che a me pare viene messo in crisi da Hegel. Allora, cerco di essere schematico. Ritorniamo nel discorso fatto ieri sulla cittadinanza. Mi permetto un eccesso un po' teoretico che sono ogni tanto mi è scusato, e però a me sembra che sia, come dire, non solo logicamente ma anche filologicamente pertinente. Allora, la cittadinanza che nasce dal giusnaturalismo, quindi la cittadinanza nel senso moderno, a me pare si presenta in modo molto evidente come una cittadinanza totalmente scissa logicamente al suo interno. Per dire, come dire, tenendo presente Hegel, il quale dice che l'epoca moderna è l'epoca della soggettività, può sembrare una cosa che meraviglia, è paradossale accorgersi che nella nascita del soggetto moderno dal punto di vista politico noi abbiamo un soggetto che è immediatamente scisso, cioè che non si trova mai, no? E questa è, come naturalmente ben sapete, la logica della rappresentanza moderna, cioè tutti sono soggetti autori di azioni che non compiano mai, e in questo modo diventano cittadini, e gli altri, i pochi, sono attori di azioni che non sono loro, perché sono appunto rappresentanti. Hegel, nel periodo giovanile, critica questo dualismo fondamentale delle moderne teorie della società, non ancora dello Stato, e l'effetto di Zwang, di Herrschaft, non nel senso formale, di sottomissione che questo dualismo giornaturalistico comporta. Ecco, allora, a me pare che nel primo periodo, Hegel, primo periodo, insomma, nella costituzione della Germania, adopera il concetto di auto-organizzazione. Volevo adesso controllare i termini, ma non ho trovato un'edizione, ma mi pare proprio di amministrazione, di auto-amministrazione dei corpi territoriali, ponendolo come elemento importante per la Freiheit, atteggiamento radicalmente diverso da quello del naturalismo, accanto, non attraverso, il momento centrale di detenzione del potere che si ha nello Stato. Naturalmente qui il problema è complicatissimo, perché Hegel parla di Stato ma ha ancora il problema dell'impero, e allora poi capiranno le cose nel maturarsi il suo pensiero. Ma per me è importante questo, che mi pare che auto-amministrazione e rappresentazione in questo contesto hanno il significato del superamento di quel dualismo naturalistico e anche del concetto quindi di cittadinanza che esso comporta. E perché, come appunto voi sapete, Hegel nella Costituzione Germania dice che la rappresentazione o rappresentanza, a me piace usare come sinonimi l'uno per l'altro i due termini, non è una idea che nasce con la rivoluzione, non è un'idea moderna, ma nasce come feudalesimo. Allora, come giustamente ha, come al solito, acutamente sottolineato Brunner, qui abbiamo un concetto di rappresentanza che è in realtà mediazione, meglio ancora, mitteilung, partecipazione. Ecco però, e questo ora tocca il primo punto, partecipazione è un concetto che dal punto di vista non storico ma concettuale, io faccio molta fatica a intendere all'interno del liberalismo e all'interno di tutta la concezione moderna, perché io posso partecipare a ciò che non è mio, io non posso partecipare alle cose mie. E a me pare che con il liberalismo una cosa è chiara, che la legittimazione dell'obbligazione politica è possibile solo riconoscendo che il potere non è un'istanza altra a me, a tutti, ma è una nostra istanza, naturalmente esercitata attraverso la rappresentazione. Ecco, allora mi pare che in Hegel altri cosa devi approcciare. Anche hai ragione. Allora finisco subito, cioè accanto a una possibilità di autoamministrazione nella direzione dell'utopia, del togliimento dell'obbligazione politica, le cose si amministrano da sole, oppure gli spazi che stanno accanto all'espressione della volontà generale, con Hegel emerge un concetto autoamministrazione legato poi alla rappresentazione come partecipazione. Rappresentanza non è più rappresentanza della volontà generale, ma partecipazione all'elemento decisionale che è l'elemento principesco. E forse questo aspetto è particolarmente importante se è vero che Michel Ferber nell'84, se non erro, dovendo che mettere in luce le teorie del rapporto rappresentanza-democrazia, è costretto a riprendere questo modello hegeliano per verificare la possibilità di una via diversa. Chiedo scusa, troppo lungo. Vi prego veramente la brevità degli interventi, perché abbiamo già parecchie persone e dobbiamo dare la possibilità agli operatori di rispondere. Aldo Mazzacane, Tommaso, Gorzi, Felici. Soltanto una domanda brevissima a Michel Stollars a proposito del rapporto tra la teorizzazione e appunto la domanda è questa: come si istituisce il rapporto tra la teorizzazione della Selbstverwaltung che la scienza giuridica ottocentesca fa nei vari campi e la medievistica tedesca che costruisce un ideale, un mito di Landgemeind, Stadtgemeind e altre realtà medievali fondate sullo spirito comunitario, al punto che oggi addirittura c'è una ripresa di questi temi. Penso a Blickle che addirittura ha formulato la nozione di comunalismus da mettere addirittura sullo stesso piano di, o quasi di feudalesimo, capitalismo, eccetera. E credo giusto la lezione di Stolarz, una domanda per diffusa di buonissime osservazioni e integrazione di confronto, perché ritengo che ci siano alcuni significati del termine nel senso del lato che è interessante chiarire. Durante il Stolarz abbiamo avuto per una due tipi di accezione di questo termine. L'uno è quello che il professor Stolarz ha evidenziato nell'esempio della Prussia e delle proprie riforme e di Franz Stein, cioè la riforma intesa come lo strumento mediante il quale limitare la burocrazia assolutistica, potere della burocrazia assolutistica mediante un'amministrazione civile che la faccia del contrapeso. Dinanzi al diffondersi dell'amministrazione statale dei funzionari, istituire un funzionariato laico che permetta allora nella sfera locale una partecipazione dei cittadini alla gestione della cosa pubblica. C'è però un altro concetto, l'accezione di questo termine che sempre tornato in forma senza di essere ricordata, cioè quello che troviamo in Russia, ma negli stati sudtedeschi, da Wienerbaden e Württemberg, dove non c'è più un potere, uno stato sologistico, ma ci sono già anche chiedo istituzionali, e tuttavia ci sono parlamenti che da meccanismi e da norme che disciplinano la loro formazione non sono sufficientemente rappresentativi della cosiddetta società civile. Ora, gli studiosi, sono i pensatori che hanno di questo periodo, da Roma e Terrega, che sono molto nuovi, parlano di proprio verbo, usando, diciamo, questo parlato in una sezione piuttosto che si volta, spesso con il sinonimo di autonomia, è semplice, menzionano fra i soggetti non soltanto i comuni, cittadini e rurali, ma anche i fenomeni, anche le società di lettura e così via. Dicendo solo che questi, anche queste associazioni, accanto alle corporazioni territoriali, devono darsi una struttura di autogoverno onde diventare quei nuclei, quei luoghi di formazione dell'opinione pubblica liberale, che non è solo di formazione di una volontà politica liberale, che non ha possibilità di crescere in un Parlamento scarsamente rappresentativo. Come dire, sono fatto dover inteso come qualcosa non soltanto di antistatalistico, antidemocratico, ma di antiparlamentare, una volta messo che i parlamenti siano veri, i parlamenti di allora scarsamente rappresentativi. Infine c'è un terzo punto che rapidamente tocco, che riguarda stavolta il Mindfulness. Il professor Stolz ha detto giustamente che la separazione definitiva di Stato e Chiesa in Germania viene sancita definitivamente dalla Costituzione di Weimar, articolo 57 terzo, eccetera. Però non bisogna dimenticare che c'è la Costituzione prussiana del 1950, non ricordo la Costituzione prussiana del 1850, non ricordo più quale articolo, proclamava la cessazione del patronato dello Stato sulla Chiesa evangelica. Ora questo articolo è rimasto naturale perché la nuova scrittura prussiana è risultata nel 2020. Però c'è un lungo dibattito in quel periodo che viene impegnato soprattutto esponenti, potremmo dire, di correnti politiche molto conservative, che pretesero che questo articolo venisse realizzato. In particolare mi riferisco agli esponenti del studio dell'evangelico prussiano, che è un personaggio laico del conte Paolo von Brandenburg, il quale, con i suoi interventi, sia la rete prussiana che la sinodo dell'Evangelica di Russia, reclamò più volte la rapida attuazione di questo articolo, diciamo anche la costruzione di una chiesa autonoma, tanta specie autonoma con proprie strutture educative, assistenziali, eccetera, perché diceva, siccome lo Stato si è costituzionalizzato e quindi nella sua gestione si è laicizzato, sta laicizzandosi, sta secolarizzandosi, la chiesa deve porsi con l'autentica e unica autorità morale capace di conservare il valore del cristianesimo. Cioè, dinanzi all'azione laica che farà lo Stato, occorre che la Chiesa si ponga con un potere tutto separato che però garantisca la conservazione del cristianesimo nella società prussiana. Ora, questo articolo diceva che l'altro giorno questo dibattito non portò nessun esito fino al 1922, credo, nel 1922, quando era per la Schisce prussiana. Però non bisogna dimenticare che durante il Kulturkampf Bismarck si disse più volte intenzionato ad appoggiare questa richiesta, posto per procurarsi l'appoggio anche del clero protestante più retrivo della lotta contro i cattolici. Grazie ancora una volta per l'Italia di interventi. Gorzi? Sì, io anche intervengo brevemente sulla relazione del professor Stolz, ma con considerazioni che si estendono però anche in altre direzioni, toccate soprattutto da Don Giovanni, perché vorrei estendere un momento di sentire il suo parere su una, come dire, riproposizione di una relazione tra categorie classiche, quella tra amministrazione e costituzione, applicata al tema della società presidium attraverso la serverato. Cioè, in sostanza, il progetto di Bismarck di creare un istituto statale delle assicurazioni, che è frutto di grossi conflitti, tant'è vero che si mette il suo consigliere Theodor Loman, che appunto era cattolico, che gli sosteneva l'idea dell'autonomizzazione, e che passa in seconda istanza, sulla base di un progetto presentato da un organicista come Schelle, in realtà era volto a creare, attraverso la obbligatorietà dell'assicurazione tra imprenditori, un progetto costituzionale, cioè di trovare lì il fondamento di una rappresentanza alternativa a quella parlamentare. Quindi e recita questa articolazione di analisi istituzionale e amministrativa della ricerca fatta nel campo delle assicurazioni e progetto istituzionale. E per quanto riguarda una specifica assicurazione assoluta, quella contro le malattie, lì è proprio palese questa, come dire, questa articolazione di progetto politico e di analisi istituzionale, perché venne concepita come un progetto di integrazione amministrativa della forza lavoro in alternativa all'integrazione parlamentare, che infatti viene esclusa per quanto riguarda la forza lavoro, ma fu usata, perché ben presto fu occupata sostanzialmente dalla socialdemocrazia, assente a livello politico ma estremamente presente a livello amministrativo, usata proprio eccedendo, andando al di là del testo di legge, perché le sovvenzioni statali ricevute servirono in effetti per scopi diversi da quelli previsti dalla legge. Penso soprattutto al problema dell'igiene pubblica, della prevenzione, che non era prevista dal testo di legge. Tant'è vero che fu necessario ricorrere ad una successiva normativa degli anni 90 per restringere quest'uso arbitrario delle sovvenzioni, nel senso che, per esempio, fu stabilito non più sovvenzioni di denaro, ma uso di medici prescritti, controllati dallo Stato. Ecco, e questo mi porta a una riflessione sul concetto di amministrazione indiretta. È vero che l'amministrazione indiretta serve ad estendere in qualche modo il concetto di pubblico, ma rimane comunque un elemento di forte destabilizzazione. Su questo presente il conflitto tra Romano e il caro Francesco Ferraris, proprio sulla, come dire, sull'amministrazione indiretta, che non è per uno è espressione del pubblico, per l'altro invece è espressione del sociale pubblico, e anche qui il vettore di una futura possibile continuità di trasformazione costituzionale. Marco qualche rapida osservazione e una domanda sulla relazione di Stolleis. Sebbene in Italia nella prima metà dell'Ottocento l'autoamministrazione comunale, sarebbe la traduzione letterale di Gemeinde Selbstverwaltung, esista, non mi pare che venga concettualizzata in quanto tale, cioè non c'è una riflessione che identifichi questo concetto. Ma la cosa più singolare è il fatto che c'è, dal punto di vista storico-fattuale, una sorta di rovesciamento rispetto al quadro proposto dalla Germania. Cioè, in Italia autoamministrazione comunale significa ambito di autogestione nobiliare delle città, e viceversa, laddove esiste partecipazione civil-borghese in senso anche statale, ma anche in senso anche nobiliare, in campagna. Questo naturalmente riflette le condizioni storico-fattuali italiane. Ci sono pure diversi progetti, per esempio, dell'autoamministrazione comunale in Italia negli anni grossomodo successivi, ecco, per fare un esempio, la riforma di Stein, che era introdotta in Germania. E sono due personaggi veramente opposti. L'uno è Monaldo Leopardi, cioè il padre di Giacomo Leopardi, che è l'ultimo uomo d'antico regime che ancora incontriamo in veste pubblica nell'Italia degli anni 30 o 40 dell'Ottocento. L'altro è Carlo Cattaneo, che vale invece come intellettuale borghese per eccellenza del primo Ottocento italiano. Resta comunque il fatto che a livello cittadino l'autoamministrazione comunale in Italia in quest'epoca è ancora un'amministrazione organizzata con norme di corpo, cioè è previsto per esempio un certo numero di seggi per i nobili, un certo numero di seggi per esercenti di professioni. Se si va nella norma è molto difficile riuscire a considerare da una parte del discorso borghese, nel senso del discorso individualista. Mi chiedevo, per quello che riguarda la Germania, in che misura sia presente vitale la vecchia tradizione delle Reichsstädte nell'immaginare i modelli di autoamministrazione dei cittadini, per un verso, questo avvicinerebbe di nuovo le due esperienze, per un altro verso mi chiedevo, dal punto di vista tecnico, come fa a coesistere in campagna l'autoamministrazione con il perdurare della Grundherrschaft, della signoria fondiaria, no? Che diceva che in Campania autoamministrazione comunale significa poi governo nobiliare. Insomma, tecnicamente come si posizionano le cose. E una rapidissima domanda invece a Don Giovanni, qual è il destino delle Camere del Lavoro che cominciano a essere istituite in Italia a partire dai primi anni 90 all'interno del tragitto che tu hai costruito? Grazie. Le voterei congiuntamente sulle relazioni di sordi di Buon Giovanni. Per poi un problema di carattere generale, che è questo. A me sembra, loro hanno detto tutte e due, in sostanza questo, il uno degli elementi centrali della Costituzione dell'Ottocento, Costituzione in senso ampio, quando parliamo ovviamente del contesto, è la distinzione tra pubblico e commerciale. Questo mi pare molto importante, cioè che poi ha un effetto giuridico concreto quando si dice non è possibile in quella fase storica perseguire un interesse pubblico come forma giuridica della società anonima, della società terza. Però è un problema, è una civiltà, possiamo dire ancora dell'Ottocento, che vive di questa grande distinzione. Per cui sono due cose molto diverse, la sfera dell'appropriazione dello scambio e la sfera del perseguimento dell'interesse. Poi si dice che il secondo punto, che i giuristi, questo ho visto in comune tra le due relazioni, che i giuristi hanno teorizzato questo, su questo hanno costruito il diritto amministrativo nella sua fase più alta. Terzo punto, si dice poi le cose sono cambiate moltissimo, questa distinzione tra pubblico e commerciale non è più praticabile. Allora forse quei giuristi non hanno capito la natura epocale di questa trasformazione che è verso la democrazia, verso la complessità e via dicendo. Ecco, ora sto riassumendo, sono veramente tranciato. Ora, questo è un po' uno schema che è molto circolante e che presuppone una cosa, che quella distinzione tra pubblico e commerciale adesso ha una natura artificiosa, ideologica. Si parlava anche prima con Pierangelo, la distinzione è stata societaria, e che oggi questa sarebbe invece il destino, sarebbe la realtà delle cose. Mi sento premere molto anche tra i giuristi questo discorso. Secondo me è molto pericoloso e tutto da rivedere. Cioè, non si può a priori escludere che un ritorno alla distinzione tra pubblico e commerciale, proprio perché ha nel senso proprio la tradizione, sia uno dei problemi del presente, insomma, che quella stessa forza delle cose che ha distrutto la distinzione tra pubblico e commerciale oggi la riponga all'attenzione di tutti, no? Questo è senza che possa essere previamente bollata come classicamente liberale e quindi cosa ottocentesca cui comunque non dovremmo tornare più perché è frutto di un'ideologia. Ecco, secondo me il problema di una buona distinzione tra pubblico e commerciale con strumenti diversi da quelli dell'Ottocento è un problema del presente, della politica e dei giuristi e della scienza giuridica del presente. Ecco, questo forse su questo volevo anche che Michael, se ha qualcosa da dire su questo, mi interesserebbe molto, anche al di là della sua relazione qui oggi. Danke. Ich wollte nur eine kurze Bemerkung machen zu dem Phänomen der Bürgerrechtsbewegung, was Herr Stöller jetzt zum Schluss angesprochen hat. Dies ist ja ein internationales Problem, dessen es selbst mit Lernen zu liegen scheint, dass diese Bewegungen, die man auch unter dem Stichwort Regionalismus gesamteuropäisch diskutiert, die vorgegebenen Verfassungseinheiten außer Acht lässt, unterläuft, überspringt und eine neue Struktur zwischen Bürgerschaft und Staat etabliert. Sie ist kulturell, ökologisch, ökonomisch definiert mit der Problematik verstärkter Privatisierung dieser Strukturen, was dort historisch die Privatisation genannt hat, des öffentlichen Rechts, kann man, glaube ich, hier kurz beobachten, mit gewissen Problemen für die Rechtsstaatlichkeit, was die Gerichtsbarkeit und Überprüfbarkeit dieser Phänomene betrifft. Sì, io mi attacco all'osservazione che ha fatto Fioravanti e, se ho ben capito, la condivido molto, anche nel senso che io starei attento a generalizzare una lettura della vicenda amministrativa o comunque della vicenda del rapporto tra privato e pubblico nel Novecento sono nella direzione di un aumento di statizzazione, cioè di vittoria della dimensione pubblica sulla dimensione invece commerciale o privata o anche autoamministrativa da un certo punto di vista. Nel senso che la mia impressione è invece che certamente oggi, ma forse già da decenni, esiste un trend verso una gestione privatistico-commerciale di funzioni, tra virgolette, pubbliche, che è un problema, secondo me, cruciale e veramente determinante per il nostro futuro. Però non credo che questo sia un fenomeno solo degli ultimi anni, credo sia un fenomeno che può essere fatto risalire nelle sue origini alla crisi dello Stato di diritto. Questo però, con il microfono in mano, mi dà il testo di fare altre due domandine brevi, una a Stollaris. Il problema della Selbstverwaltung è stato da lui collegato, però molto di sfuggita, con il problema della Selbststeuerung. Ecco, vi chiedo se, cioè quanto forte sia, secondo lui, il nesso tra appunto capacità di autoamministrazione di un corpo o di una comunità e capacità che questa comunità ha di avere delle risorse, di disporre delle risorse per gestire questa amministrazione. Questo problema probabilmente porta anche al problema che per me è fondamentale per comprendere il senso della Selbstverwaltung, e cioè il significato politico che la Selbstverwaltung può avere rispetto all'esistenza di una comunità. Questo credo sia il discorso che tu hai toccato di sfuggita e poi non hai trattato del dibattito su Selbstverwaltung e autonomia, sostanzialmente. Quindi, insomma, il problema è questo: se Selbstverwaltung deve essere qualcosa di diverso dalla semplice gestione al di fuori dello Stato di fatti amministrativi, allora bisogna che ci sia anche che sia risolto anche il problema delle risorse, e allora bisogna anche cercare di capire il fondamento politico che questa Selbstverwaltung ha. Ecco. Per quel che riguarda invece Sordi, volevo fare una domanda molto semplice. Secondo te, cioè la tua ricostruzione dell'amministrazione come soggetto pubblico a sé stante, insomma, indipendente, no? Come una dimensione che ha uno statuto giuridico specifico. Questa ricostruzione che tu hai fatto, che non a caso hai concentrato sostanzialmente sull'Ottocento, perché prima non ci sarebbe appunto questa possibilità di individuare questa dimensione, e presto, ai primi del Novecento, coincide secondo te con il modello di Stato di diritto che ieri ci ha prospettato Maurizio? I should like to make a remark which in a way that refers to all three speakers this morning, and more specifically to Don Johan. What I should like to draw attention to is the fact that in the Dutch system of public law in the 19th century, there essentially was almost no public subject to law. There's one exception which has to do with the administration of dikes and water, but that has a very old history, and I should kind of think that out in the discussion. And churches are a different kind of association as well. They have constitutional separate position. So they're not to be related to the other category, which was the most important, that of private associations. And in Dutch law, you can become a subject of law by becoming an association. That is to say, there is an open space which can be filled by citizens just according to their wish. They can recreate citizens on a different level of organization, so to say. The reason I bring this in is that these associations, as a matter of fact, function for the same purposes that Burger Initiative or the public subject of law that have been discussed by Montalani function in the rest, respectively, in German and Italian cities. So I have been pondering what is the difference between those. And I would say that the main difference is that in the cases that have been discussed this morning, there's always a question of delegation. There are some public goals that have to be fulfilled, and the question is, will these goals be pursued by the government or the state apparatus or by some kind of delegation in a public subject of law? Whereas in the Dutch case, there is no question of such delegation, but kind of determination on the part of the liberal system to this distinction between delegation and filling an open space would be very relevant to find out the relationship between the special administration and the citizens. Okay. Brevissimamente vorrei appunto aggiungere a quanto ha detto già Fioravanti e Schiera sulle relazioni di Bongiovanni e Sordi, che questa contrapposizione pubblico-privato non è imposta solo dalla forza delle cose, ma difesa per portare acqua al mio mulino, che se non c'è bisogno di acqua, e è teorizzata matematicamente dagli economisti, che sono l'ultima, che sono l'ultima riserva teorica, l'ultimo caposaldo teorico di questa contrapposizione. Se non c'è più nessuno che vuole intervenire, due domande cortissime per il professor Lars Sotti. Lei ha parlato di questa bella espressione Hoffnungswort del concetto di self-servanti contro l'assolutismo e l'amministrazione statale. Domanda: in che misura questo stesso concetto di Selbstverwaltung gioca come Hoffnungswort contro la rivoluzione, contro il modello francese, inteso come sinonimo di accentramento e anche per ciò che consegue anche la rivoluzione francese? Ieri Fioravanti ha sottolineato a livello di circolazione di modelli l'importanza che l'opera di Burke ebbe in Germania. Allora, domanda: gioca un ruolo, si può dire che anche in questa prospettiva il concetto di Selbstverwaltung gioca un ruolo? Domanda invece a Sordi: sono d'accordissimo sul problema naturalmente del ruolo che gli enti pubblici giocano in quel processo che tu hai così ben descritto in Italia, per quello che riguarda l'Italia. Anche a te una domanda: gli studi di Cassese, ma altri anche, penso anche agli studi di Menes negli ultimi anni, hanno insistito sui differenti periodi, sul ruolo diverso che nei differenti periodi della storia italiana giocano gli enti pubblici. E sottolineare, per esempio, se noi andiamo a vedere certe argomentazioni con le quali viene istituita la Cassa del Mezzogiorno, così prese le motivazioni sembrano quelle con cui vengono istituiti certi enti dell'età giudiziana. Ma poi progressivamente invece, cioè se noi, mentre nell'età giudiziaria gli enti pubblici vengono istituiti sotto la motivazione che ci sono dei compiti nuovi da svolgere, bisogna trovare una creatura che sappia svolgere questi compiti non tradizionalmente svolti né da pubblico né da privato. Ecco, invece, richiamo ancora Cassese, nel dopoguerra c'è un radicale mutamento del significato di questi enti, perché questi enti vengono a svolgere anche funzioni tradizionalmente svolte dallo Stato, insomma l'espressione di cassa da cassino, lo Stato diventa un vero e proprio ufficiale pagatore che fa svolgere determinate questioni. Ecco allora, che ruolo gioca questa trasformazione costituzionale nel, dal punto di vista della dottrina? Basta. Neue intelligente Person will mehr Fragen als ein armer Referent beantworten können. Ich bin kein Philosoph und ich bin auch kein Hegel-Spezialist, sondern Historiker. Und die Hegel-Interpretation gibt sich große Mühe zu zeigen, wie Hegel das Problem von Zwang, Repräsentation und Freiheit vermitteln auf dialektisch aufheben kann. Der frühe Hegel ist ein anderer Hegel als der Hegel der Rechtsphilosophie von 1821. Und hier liegt schon ein Interpretationsproblem. Der frühe Hegel ist optimistischer, vielleicht sogar ein heimlicher Revolutionär, der hofft, die Befreiung des Subjekts umsetzen zu können. Der späte Hegel, den ich richtig sehe, ist skeptischer und setzt stärker auf den Zwang des Staates. Ich glaube nicht, dass das hegelische Konzept in der historischen Realität eine dritte Möglichkeit war. Es ist eine philosophische dritte Möglichkeit, aber keine in der historischen Realität. In der Realität sehe ich nicht mehr Felder als die kommunale Selbstverwaltung und die Wissenschaft zunächst. Dann kommt das Gewerbe, das Handwerk, die Kirche ist ein Sonderfall und zum Schluss die Sozialversicherung. Mehr sehe ich historisch praktisch nicht. Philosophisch ist das sicher eine dritte Möglichkeit. Die Frage von Alter ist schwierig. Der Beginn der theoretischen Debatte und die Hereinnahme mittelalterlicher Vorbilder. Das gibt es wirklich. Es gibt schon von der Romantik her eine intensive Mittelalterrezeption. Und in den Konzeptionen des Vormärz wird immer das mittelalterliche Vorbild herangezogen. Die große Zeit der Städte. Dann kommt im historischen Verlauf die Degeneration der städtischen Freiheiten im Absolutismus und nun kommt wieder das strahlende Neubeginn. Man arbeitet im 19. Jahrhundert fast immer den Historismus mit historischen Begründungen. Man sagt, es ist eine wiedergefundene städtische Freiheit. Und da kann ich vielleicht gleich mit verbinden. Das hat auch einen Zug ins Konservative. Die Erinnerung an das Mittelalter hat auch ein konservatives Element. Es gibt beides, besonders in Süddeutschland, die Sympathie für Frankreich, für das Land der Freiheit, für das Land der Egalität. Das steckt ja auch in der bürgerlichen Selbstverwaltung drin, dass alle gleich sind, aber nur die wirklich berechtigt sind, teilzunehmen. Und insofern hat man ein doppeltes, ein Freiheitselement und die Exklusion derjenigen, die nicht akzeptieren dürfen. Die Färbungen sind sehr unterschiedlich. Im ganzen frühen 19. Jahrhundert gibt es die beiden Linien, die im Liberalismus, die Linie, die an der Französischen Revolution und am Naturrecht festhält, typisch etwa Rottek. Und die zweite Linie, die stärker historisch denkt, etwas konservativer orientiert ist der sogenannte historisch-organische Liberalismus, zum Beispiel Welke, zum Beispiel Grimm, Jakob Grimm und andere, die vermittelt wurden. Die englische konservative Tradition und die französischen Ideale. Ich habe nicht die Differenzierung zwischen Preußen und Süddeutschland gemacht. Und diese Differenzierung ist ganz wichtig. In der Kürze der Zeit konnte ich das nicht tun. Die Selbstorganisation der bürgerlichen Gesellschaft in Süddeutschland gegenüber Vereinen. Das habe ich deswegen nicht hier erwähnt, weil diese Vereinsbewegung keine Verwaltung ist. Ich habe mich konzentriert auf Verwaltung. Die Vereine sind autonome, freiheitliche Bewegungen in der Gesellschaft, so wie es in Holland auch die juristische Person als Möglichkeit der Selbstorganisation für alle möglichen privaten Interessen gibt. Das gibt es in Deutschland natürlich auch. Aber das ist keine, das fehlt das Spezifikum der Verwaltung. Also man müsste jetzt im Historischen genau differenzieren, auch zwischen Preußen und Süddeutschland. In Süddeutschland ist die liberale Vereinsbewegung sehr viel stärker. Und man müsste zweitens differenzieren, das ist die Frage nach der Kirche, zwischen dem protestantischen und dem katholischen Deutschland. Für die katholische Kirche spielt der Terminus Selbstverwaltung gar keine Rolle. Wir haben schon in den 30er Jahren die preußischen Konflikte zwischen Katholizismus und Staat und dann im Kulturkampf extrem. Die katholische Kirche war immer selbstverwaltet. In diesem Sinne. Sie war ultramontan, jenseits der Berge. Und das Problem der Selbstorganisation ist nur bei der protestantischen Kirche aufgetreten. Und Sie haben vollständig recht, wenn Sie sagen, dass die protestantische Kirche schon im Laufe des 19. Jahrhunderts quasi autonom war, aber nicht ideell. Der Landesherr war immer noch in der Union von Thron und Altar die eigentliche Spitze des Systems. Zu Gozzi kann ich nur sagen, das ist alles vollständig richtig. Und Bismarcks Versuch, mit Hilfe der Sozialversicherung eine Art Antiparlament aufzubauen, das war ein Gedankenspiel gegen den Reichstag. Das ist aber nicht geglückt. Er wollte das in der Tat. Er wollte mit der Unfallversicherung ein berufsständisches Parlament kreieren, um die Parteien zu vernichten. Das war seine eigentliche Idee dabei. Bismarck war ja nun wirklich ein Feind der politischen Parteien und er hat sie in gewisser Weise auch ruiniert. Das ist ein Problem, was wir fast bis zur Gegenwart noch spüren. Und das war so eine Idee mit der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung, eine Art Antiparlament zu machen. Natürlich mit der Vorstellung, er könnte es dann auch besser beherrschen als die politischen Parteien. Das war ähnlich wie bei seinen Staatsstreichplänen, die er ja mehrmals gehabt hat. Zu Ihrer Frage kann ich auch nur noch mal sagen, Unterschiede zwischen Italien und Deutschland haben Sie angesprochen und dann die Frage gestellt, wie präsent ist die Tradition der alten Reichsstädte? Vielleicht kann man ganz vereinfacht sagen, in den kleinen Gemeinden ist diese Tradition abgerissen. Die kleinen Gemeinden sind mehr oder weniger doch dem Absolutismus untertan gewesen, in den süddeutschen kleinen Reichsstädten. In den großen ist es anders. Also Bremen, Hamburg, Lübeck, Frankfurt, die bewahren diese Tradition der alten freien Reichsstadt bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. Frankfurt wird okkupiert von den Preußen und hat große psychische Probleme, die alte Reichsstadtfreiheit aufzugeben. Bremen und Hamburg haben diese Tradition bewahrt bis ins 20. Jahrhundert. Und erst jetzt, in der Finanzkrise, denkt man darüber nach, ob man liquidieren soll und ob man nicht Bremen, Hamburg, Saarland als kleine Stadt auflösen soll, weil die nicht mehr in der Lage sind, ihre Kinder zu bezahlen. Aber das ist eine unmögliche Frage, niemand kann das tun. Bremen und Hamburg werden frei. Also das sind die Reste. Wir müssen differenzieren zwischen großen und kleinen Städten. Ich glaube auch die Frage von Maurizio Bernardo würde besser antworten. Das kann ich nicht so. Und zu deiner Frage, ganz normal, dass wir im 19. Jahrhundert besonders seit den 80er Jahren eine Verlierung von Staatlichkeit haben und dass der private Sektor an Raum verliert. Also da sind wir uns ganz einig, die Zivilrechte sehen das anders. Wir haben im Moment eine große Debatte über die Privatisierung, Wiederentdeckung des autonomen wirtschaftlichen Subjekts in Deutschland und eine große Reprivatisierung de facto. Aber ich glaube nicht, dass das den generellen Trend umführen kann zu den großen Bürokratien. Also hier bin ich Max Weber Anhänger und ich glaube, dass dieser Trend sehr, sehr stabil ist und dass eine komplizierte industrialisierte Welt ohne eine Verwaltung gar nicht auskommen kann. Sie kann nicht leben. Das ist ihr Schicksal. Und eine Frage, ob Selbstverwaltung ein doppeltes voraussetzt, wenn ich es richtig verstanden habe. Finanzielle Ressourcen einerseits und ein soziales Substrat. Eine politische Entscheidung für Selbstverwaltung. Das, glaube ich, muss man so sagen, dass die politische Entscheidung genügt nicht, wenn man dieser Selbstverwaltungsorganisation nicht auch die finanziellen Ressourcen gibt. Siegel Bremen oder Hamburg. Aber die Finanzen reichen auch nicht aus, wenn der politische Wille zur Selbstorganisation nicht vorhanden ist. Und wenn nicht Bürgertum im klassischen Sinne vorhanden ist, was diese Angelegenheiten in die eigenen Hände nehmen will. Beispiel Sozialversicherung. Die finanziellen Ressourcen sind da, aber es ist nicht der politische Wille, wirklich Selbstverwaltung zu machen. Es gibt keine Arbeiterbewegung mehr in diesem klassischen Sinne des 19. Jahrhunderts. Niemand ist interessiert, in der Selbstverwaltung der Sozialversicherung zu arbeiten. Das macht keinen Sinn. Das ist praktisch Staatsverwaltung. Eine letzte Bemerkung zu den Niederlanden. In den Niederlanden, wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Persona Moralis der klassischen Doktrin verwendet worden zur Organisation in allen möglichen Formen, von Wasser- und Deichverwaltung bis zu den privaten Vereinen und den Kirchen. Warum hat es in Deutschland diese Differenzierung zwischen juristischer Person des öffentlichen Rechts und des privaten Rechts gegeben? Erfunden worden ist das von dem Staatsrechtler Albrecht 1837 in Auseinandersetzung mit einem konservativen Staatsrechtler Maurenbrecher, eine berühmte Rezension, ein ganz kleiner Text. Und dann ist es von Gerber, einem Schüler von Albrecht, in den 50er, 60er Jahren entwickelt worden. Und man hat sich allmählich entschlossen, den ganzen Staat als juristische Person des öffentlichen Rechts zu begreifen. Das kurz gesagt, das politische Motiv war, den Dualismus von Fürstensouveränität und Volkssouveränität zu entgehen und ein drittes zu wählen, nämlich Staatssouveränität. Das war ein eleganter Weg, um den Dualismus der Verfassung im 19. Jahrhundert. Monarchisches Prinzip ist Fürstensouveränität und Volkssouveränität auf der anderen Seite aufzulösen in einen neutralen dritten Punkt. Und der neutrale Punkt heißt Staat, Staat als juristische Person. Und dann kann man den Fürsten als Organ dieser juristischen Person definieren, ihm also eine dienende Funktion geben. Das war eine sehr elegante, intelligente Lösung des politischen Problems. Und es kommt noch hinzu, dass die Doktrin des öffentlichen Rechts daran interessiert war, eine eigene Figur zu finden. Sie wollte sich emanzipieren vom Zivilrecht und hat deswegen gesagt, es gibt zwei Sorten juristische Personen, die Persona Juridica des Zivilrechts und des öffentlichen Rechts. Also das sind auch wissenschaftliche Eigeninteressen am Werk, um das zwei Welten zu kreieren, die in Wirklichkeit natürlich keine zwei Welten waren, aber in der Doktrin. Genau. Okay. rispondere molto rapidamente perché vedo che l'ora è molto tarda. Mi premeva in particolare precisare questo, non vorrei ci fosse un equivoco, cioè non avevo inteso questa vicenda novecentesca in un senso appunto unilaterale stabilizzazione, anzi, cioè proprio la vicenda anche recente, con questa continua commistione pubblico e privato, poteva essere un invito a ripensare il carattere ideologico di quella distinzione, anche diciamo la stessa struttura che questi giuristi fanno in realtà. Poi della stessa amministrazione ottocentesca che pure agisce secondo il diritto privato e che ha provato a utilizzare il diritto privato. Quindi c'è diciamo una strutturale ambivalenza di statuti giuridici nell'amministrazione che non possono essere ridotti esclusivamente all'elemento pubblicistico. Questa è un'operazione che si fa fino all'Ottocento dal punto di vista dei giuristi, ma è un'operazione che ha una forte caratterizzazione ideologica e che forza già la realtà di partenza, che poi naturalmente la vicenda novecentesca mette ancora più in crisi. Per quanto riguarda poi le origini dell'amministrazione, qui il problema è evidentemente molto grosso. La mia impressione è che sia difficile, per quanto riguarda le origini, anche perché la nebulosa antico regime è ancora abbastanza da scoprire a questo riguardo, pensare ad un termine generale come può essere per ritorno abbastanza convincente lo Stato del diritto. Cioè qui l'impressione, io non ho grande esperienza di ricerca perché queste toscane, però l'impressione è che sia difficile assimilare il procuro la vicenda, per esempio, degli stati cittadini nostri ancora di fine Settecento alla grande vicenda dello Stato di Polizia tedesco o anche alla vicenda francese. Quindi sia necessario per il prima, credo, una traduzione di tipologie differenziate, fortemente differenziate per diversi scacchieri geografici di osservazione. Per il dopo la cosa è un pochino più semplice, se non altro perché si affermano, direi, con una certa un certo parallelismo cronologico dei sistemi tutela, dei sistemi di giustizia amministrativa, questo può essere, diciamo, una cesura tra il prima e il dopo, fra il 7 e l'800. Sul problema. Naturalmente accennava la Fresa, sì, questo mi è stata volutamente molto limitata, quindi la vicenda dei pubblici è estremamente complessa, andrebbe poi ripercorsa anche storicamente, in dettaglio, politicamente, ed è verissimo, anticiperei solo la frattura del fascismo, cioè che si utilizzano anche i pubblici anche per svolgere funzioni tipo tradizionali, questi per ovvi motivi di maggiore elasticità di gestione, specialmente di bilancio, e quindi che certamente poi è necessario fare una periodizzazione più dettagliata e storicamente. Naturalmente sono d'accordo anche con quello che diceva Monod, i processi di privatizzazione del diritto pubblico, specialmente per quanto attiene al lato imperativo del diritto pubblico, e quindi diciamo questa ventata convenzionale che entra nella sfera operativa della potestà amministrativa presenta problemi non indifferenti essenzialmente sul campo di parzialità amministrativa, perché una contrattualizzazione del potere rischia evidentemente di premiare un contraente più forte a danno dei contraenti o dei fruitori del servizio più deboli. Quindi qui sono problemi, direi, grossissimi, e poi questa nuova dimensione convenzionale dovrà porre grande attenzione. Ecco, non so con quanta consapevolezza viene in Italia il legislatore poi procede a queste innovazioni. Penso partirà dal pubblico impiego. Ecco. Sul problema pubblico commerciale, anche qui il discorso è grosso. Io mi limito a dire una cosa, cioè credo che il problema vada visto in una dimensione più complessa, cioè almeno a livello ottocentesco, perché A livello trecentesco non c'è solo una forte demarcazione pubblica commerciale, ma c'è anche una forte demarcazione tra civile e commerciale, che, a cui ora non siamo più abituati, ma che invece ha una sua grossa pregnanza. Qui Carlos ci potrebbe dire delle cose importanti. Pensate solo che tutta una serie di enti, le università, le casse di risparmio, le camere di commercio, gli ordini professionali rientrano in una previsione dell'articolo del codice civile, il 2 del codice civile del 65. Quindi non c'è una distinzione tra pubblico e privato, c'è una nozione unitaria che è quella di corpo morale e che unisce in ambito della disciplina civilistica persone giuridiche che poi dopo si definiranno o pubbliche o private. Cioè la differenza grossa è quella tra corpo morale e la società commerciale. Ecco, la società commerciale è effettivamente un altro mondo, ma è un altro mondo anche rispetto alla dimensione del codice civile, rispetto alla unione civilistica naturalmente. Ecco, lì è tutto. E allora bisognerebbe poi ripensare tutto questo volgono di problemi anche attraverso un percorso necessariamente tra diritto privato e diritto commerciale. Per il presente certamente sarebbe l'aspettativa di tutti di vedere una distinzione che poi non sarebbe più ottocentesca tra pubblico e commerciale, se non altro perché le contaminazioni italiane sono veramente ormai di tipo degenerativo. Ecco, l'unica cosa forse da chiedersi è se il percorso da seguire sia quello che da alcune parti si sostiene, cioè che il pubblico si debba poi confinare una funzione di tipo regolativo e basta, cioè che in definitiva ci sia poi un mercato che comunque produce dei risultati positivi e che sia poi necessario che il pubblico si limiti attraverso veramente delle autorità di tipo regolativo a disciplinare una forma definitiva di auto-organizzazione economica. Questo credo sia un problema evidentemente piuttosto delicato. Grazie. Sì, io ho telegrafico, perché vorrei fumare, per quanto riguarda le leggi, la questione delle camere del lavoro, per quanto ne so io, non rientrano in questa dimensione di enti giuridici, ovviamente, insomma, trattandosi di forme di organizzazione specifica, insomma, di interesse. Cioè, in Italia non si ha, questo è un caso, ad esempio, che sta nell'arte, allora nel 1920 le Camere del Lavoro vengono qualificate alle Camere del Super, alle Camere di Commercio e svolgono anche compiti amministrativi, però è un dato che in Italia non si dà, ovviamente. Ecco, per quanto riguarda invece lo capisco bene perché la produzione è di Chicago Rogers. Voglio dire, l'attribuzione della persona critica pubblica, poi c'è tutta la letteratura che si sviluppa sugli indici appunto di pubblicità, comporta una serie di diritti e di doveri ovviamente, che riguardano poi appunto maggiori controlli amministrativi, certi tipi di costituzione delle persone giuridiche pubbliche e poi una serie di effetti che ho descritto anche durante l'intervento appunto per quanto riguarda appunto il rapporto il pubblico impiego e poi l'attribuzione alla giurisdizione, cioè in questo senso per cui è un non c'è solamente la delega dell'impero ma ci sono c'è una relazione giuridica insomma tra ente e Stato poi.